come sembra semplice legare le tue mani alle mie. Prendo tempo e non so se sanguinare di gioia. Osservi solo la tua voglia di crisi continua. Osservi solo la tua sana sembra semplice sfiorare le tue labbra con le mie. Tutto è resterà incapace di gioia. Prendo tempo per la mia.